Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più. Qualche pizzico di sale in meno, tanta salute in più. Torniamo, intanto buongiorno da Nicoletta, torniamo a parlare di lui, del sale, obiettivo ridurlo a tavola, e oggi proveremo ad aggiungerlo invece alla nostra vita, alla nostra quotidianità. Intanto voglio salutare il professor Giuseppe Remuzzi che è qua in studio con me. Buongiorno professore, finalmente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negro di Bergamo e presidente eletto della Società Mondiale di Nefrologia. Professore, che cos'ha di particolare il sale? Noi pensiamo e lo usiamo per aggiungere sapore, ma da altro che cosa succede? Ma in realtà l'abitudine a mangiare salato è millenaria, è una questione di gusto, non è una questione medica. In realtà il nostro organismo avrebbe bisogno di ben poco sale. Noi potremmo avere bisogno, per esempio, di 1,5 grammi di sale al giorno. Ne introduciamo 8 grammi, qualcuno addirittura 15 grammi. Tutto questo sale in eccesso in realtà non serve. È un'abitudine al gusto, il gusto si può cambiare e possiamo abituarci con sapori diversi a evitare o a ridurre molto il sale che introduciamo. Perché ne consumiamo troppo, e tanto che per sensibilizzare le persone su questo tema così importante per la salute, vi ricordo che questa è la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale nell'alimentazione, è promossa dalla SINU, che è la Società di Nutrizione Umana, in collaborazione con il gruppo intersocietario per la riduzione del consumo di sodio in Italia. Occorre, professor Remuzzi, quindi abituarsi progressivamente a questa riduzione che richiederà un po' di sacrificio. Sì. Ma alla fine porterà tanti vantaggi sia dal punto di vista della salute che anche del gusto, perché riusciremo poi ad apprezzare il sapore vero degli alimenti. Il sapore vero degli alimenti, si possono insaporire gli alimenti con sostanze che sono diverse dal sale, il peperoncino per esempio, e poi... voi avete tutte le trasmissioni che raccontano lo zenzero, tutte queste cose meravigliose che danno e sapore. E abbiamo anche proprio delle ricettine che metteremo naturalmente sul sito, dei consigli della dottoressa Paola Reverso per aiutare le persone a non sentire la mancanza del sale, ma a usare meno sale. A apprezzare di più apprezzando altri sapori. Ma intanto una cosa interessante è che si può ridurre il sale senza, gradualmente, non bisogna mai fare delle cose drammatiche da un giorno all'altro, senza che uno se ne accorga. Per esempio, è stato fatto un esperimento abbastanza interessante. Hanno preso 3 pagnotte, avevano 3 grammi di sale, una, in un'altra l'hanno ridotto del 10% e in un'altra l'hanno ridotto del 20%. Hanno fatto assaggiare questo pane a 60 persone e hanno visto chi si accorgeva della riduzione del sale. In realtà una riduzione del 10-20%, che è importante per il nostro benessere, per la nostra salute, non era avvertita dal gusto. Questo vuol dire che possiamo ridurre gradualmente il sale nella dieta senza che uno se ne accorga. Quindi piccoli sacrifici per ottenere dei Deve grandi vantaggi. È una cosa molto graduale, sì. Il vantaggio è enorme. Pensiamo che noi siamo tutti convinti della capacità del fumo di indurre malattie, ormai per fortuna, e la maggior parte dei tumori non ci sarebbero se la gente non fumasse. E quindi ci sono state campagne per il fumo importantissime e forse siamo arrivati, adesso la gente non fuma più nei locali pubblici, questa è una cosa molto bella. Si risparmierebbero negli Stati Uniti 120.000 morti all'anno, che per noi potrebbero essere 30.000, 40.000, se la gente riducesse di un pochino, non in modo drammatico, basta di 3 grammi per chi ne consuma molto, la quantità di sale. Quindi il vantaggio per la salute sarebbe paragonabile a quello di smettere di fumare, ma noi non lo apprezziamo affatto. noi apprezziamo l'importanza di calare di peso, apprezziamo l'importanza di smettere di fumare, cose importantissime, intendiamoci, certo, ma non apprezziamo questo. Basta proprio qualche pizzico in meno. 800 24 00 24 per parlare di sale, di riduzione del sale. Parleremo anche di come aggiungere però il sale alla nostra quotidianità. È una questione di quantità, perché ne consumiamo troppo, ma professor Remuzzi, come lei sottolineava, anche di gusto, di abitudine al gusto, perché il sale ha un sapore che, a differenza degli altri, si comporta in modo un po' particolare. Noi non amiamo i piatti insipidi, sciapi, ma anche quelli troppo salati non ci piacciono. La stessa cosa, ad esempio, non avviene per altri sapori, per il dolce. Bene, c'è una ricerca che è partita proprio da questa osservazione. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Giovanna Luini, scrittore, medico e comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, il sale si comporta in modo un po' particolare. Il sale è interessante perché voi sapete che la nostra lingua ha delle zone, no? C'è una carta geografica della lingua e, scusate, in queste zone sentiamo un dato sapore, sentiamo il dolce, sentiamo il salato, sentiamo l'amaro oppure l'acidulo. Il sale è molto curioso perché, mentre per esempio il dolce è un sapore che per noi è piacevole, quindi i nervi ci dicono questo è un sapore piacevole, oppure l'amaro è spiacevole, quindi sgradito, il sale può essere piacevole se è poco, diventa sgradito se è troppo. Perché? Perché se noi mangiamo con troppo sale, quindi se sulla nostra lingua c'è troppo sale, si attivano anche quei recettori che servono a portare l'amaro oppure l'acido. Quindi, se li trascina dietro praticamente. Se li trascina dietro, noi andiamo a stimolare recettori che sentono l'acido e l'amaro come? Esagerando con il sale. Questo secondo me è molto interessante perché va nella direzione che stavate già sottolineando voi. I nostri recettori, i nostri nervi si possono abituare oppure disabituare. Noi siamo configurati in modo fisiologico per mangiare poco sale. Sì. Lo apprezziamo se è poco, se è tanto attiviamo dei recettori che per noi sono cattivi, sono negativi. In realtà disimpariamo la nostra buona regola, cioè poco sale, esagerando, perché a furia di dare sale, dopo un po' anche i recettori dell'amaro e dell'acido si stancano di dirci guarda che stai sbagliando. Basterebbe andare un pochino indietro, come già dicevate, con la quantità di sale, per ritornare a uno stato che per noi è del tutto fisiologico, cioè poco sale, i recettori giusti della lingua ci dicono oh che buono, siamo felici e siamo anche e siamo tutti felici e contenti. Grazie, esatto, alla dottoressa Luini per essere, grazie, stata con noi. 800 24 00 24. Professor Remuzzi, noi faremo un viaggio all'interno del nostro corpo per capire quali sono gli organi che possono in qualche modo essere compromessi o avere delle difficoltà proprio da un consumo eccessivo di sale, e quali vantaggi invece potremmo avere, partendo dal cervello, il cuore, reni soprattutto. Noi li associamo al sale, e tra l'altro nella settimana mondiale del sale ricorre proprio oggi la giornata mondiale del rene. Non è stato fatto a caso? No, forse no, non è stato fatto a caso. O è stata una coincidenza? Perché c'è un legame tra sale e reni. C'è un legame fortissimo tra sale e rene. Ci sono degli animali e in parte questo si applica anche all'uomo, sì, che non sono capaci di eliminare il sale. Il rene è un organo straordinario che in realtà ci consente la libertà di eccedere. Se non ci fosse il rene, noi siamo usciti dagli stagni, eravamo pesci, siamo diventati dei vertebrati e poi degli uomini attraverso il rene, che ha imparato a trattenere il sodio e a eliminare il potassio. Tutto questo sistema nell'acqua non è importante, perché nell'acqua del mare c'è sodio dentro, sodio fuori rispetto al pesce, quindi era molto facile. Invece incominciare a vivere sulla terra implicava tutto un lavoro di equilibrio molto preciso di quello che introduciamo e quello che eliminiamo. Ecco, il rene ci consente di fare tutto questo. Ci sono delle persone però che non sono programmate per eliminare l'eccesso di sale. Quindi mentre per la maggior parte della gente anche l'eccesso di sale, che fa comunque male, però viene eliminato. Quali sono queste persone? Sono persone che hanno delle alterazioni genetiche di certi trasportatori del sodio che si trovano all'interno del rene, per cui quello che loro introducono non viene eliminato. O non ne viene eliminato abbastanza, allora si alza la pressione e questo induce dei danni al cuore, induce dei danni al cervello, compromette la funzione di molti organi e tutto questo comincia di fatto dal sale. 800 24 00 24, parliamo di sale, parliamo anche di reni, l'organo che noi abbiniamo ad un consumo eccessivo di sale, perché noi pensiamo facciamo una dieta troppo salata, il rene fa fatica e allora ingrasso, mi gonfio, ritenzione idrica. Professor Remuzzi, è vero? Beh, ci sono due cose fondamentali. La prima è la ritenzione di acqua. Insieme al sodio si trattiene l'acqua e quindi aumenta il volume circolante. Però finché non c'è insufficienza renale, il nostro organismo si adatta all'aumento di volume. Quello che succede con tanto sale però è che si stimolano anche certi recettori nervosi che sono sensibili ad ormoni come l'adrenalina. E questo induce quello che i medici chiamano vasocostrizione. Cioè le nostre arterie si riducono di calibro, riducendosi di calibro aumenta la pressione. Questo aumento della pressione porta a danni alla circolazione del cuore, alle coronarie per esempio, porta danni al cervello, porta danni al polmone, porta di fatto danni a tutti gli organi. Questa è una delle conseguenze più importanti dell'aumento di sale, che poi vuol dire alla lunga scompenso di cuore, si associa al diabete, ecco, si associa a tante altre malattie. Non possiamo pensare che proprio dietro questi piccoli granellini portino, trascinino con sé tutti questi problemi se sono in eccesso. Lei sottolineava il rapporto con la pressione. Alle persone ipertese quindi il consiglio è ridurre progressivamente la quantità di sale sulla tavola e non solamente del sale aggiunto in tavola, ma di quello anche consumato con altri alimenti. Professore. Ecco, è molto importante per chi ha qualche malattia tutto quello che dico, perché intendiamoci, una persona giovane che ha un rene che funziona, il rene si arrangia, uno può fare tutti gli eccessi che vuole, il rene si regola benissimo da solo, però questa abitudine non va trascinata, perché poi più avanti, anche solo con l'età, con la rigidità delle arterie, con tutto quello che succede, e se poi soprattutto uno ha la pressione alta, questi diventano problemi importanti. In rapporto a quello che diceva adesso, io penso che i radioascoltatori possano ricordare tre numeri, 10, 40, 50. 10 è la percentuale di sodio, che è la componente che fa male del sale, che è cloruro di sodio, è la percentuale che noi introduciamo con gli alimenti freschi, frutta, verdura, carne, pesce, freschi. Questi è il 10% del sodio che noi introduciamo. 40 è quello che aggiungiamo. Quello che noi aggiungiamo nel salare l'insalata, nell'acqua di cottura della pasta, col salino, quello lì è il 40%. Sì. E il 50% è il sodio aggiunto nelle preparazioni industriali o artigianali, quello che c'è nel pane, nei prodotti da forno, negli insaccati, nei salumi, nei formaggi, nel prosciutto. Ecco lì, questo è un po' di più per la verità del 50, ma insomma per schematizzare ricordiamo 10, 40, 50. Allora non ha senso che noi riduciamo il 10, dobbiamo ridurre il 40 e forse quello lo possiamo anche eliminare se uno non aggiunge sale, salvo che nel cuocere la pasta riduce in modo importante, e poi dobbiamo ridurre il 50. Il 50 non lo dobbiamo ridurre noi da soli, lo deve ridurre l'industria. In questo in Inghilterra e negli Stati Uniti c'è stato uno sforzo straordinario per convincere l'industria di chi fa i preparati artigianali e industriali per il cibo, i piselli in scatola per esempio, ma lo stesso pane, gli insaccati. Ecco, se loro riducessero un pochino la quantità di sale, come dicevamo prima, noi non ce ne accorgiamo nemmeno, i benefici per la popolazione sarebbero anche in enormi. Termini economici. Daniela, dalla provincia di Bolzano, abbiamo dato 10, 40, 50, ricordiamo il nostro numero verde 800 24 00 24. Daniela, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie al professore Muzzi, ho imparato un sacco di cose. Io sono moltissimi anni che ho via via ridotto il sale. Sì. E sto molto bene, vedo che tutte le cose mi piacciono di più, ho incominciato molto banalmente cucinando le verdure a microonde, dove diceva non salate, le avevo comprato un forno a microonde, eccetera, e poi ho via via ridotto. Mi rimane un'unica perplessità, ed è quella di questo glutammato di cui per le minestre, sì, o per fare il brodo. Sì. Io normalmente le verdure poi metto dentro magari un po' di alga o qualche cosa per insaporire, ma non riesco ancora a trovare un sapore che si avvicini al classico sapore della minestra insaporita con queste cose. Del glutammato, del dado da brodo, insomma, qualche Daniela. Ho qualche cosa che io non conosco e che magari potrei utilizzare. Ho via via provato in un modo o nell'altro, ma non in modo soddisfacente. Bisogna insistere nell'abituarsi a dei sapori freschi come lei sta facendo con alghe. Io la invito a rimanere in collegamento con noi perché non voglio rubare il mestiere a Marco Bianchi, che ci raggiungerà nella seconda parte della trasmissione proprio per suggerire saporite, gustose sostituzioni. Grazie a Daniela e complimenti. 800 24 00 24. L'invito di oggi è: centelliniamolo a tavola, ma gustiamolo nella vita. Si tratta di cose molto serie, indispensabili per proteggere il gusto della vita. Mi riferisco ai piccoli fremiti suscitati nell'intimo dai piaceri più minuscoli, dalle incertezze e perfino dalle delusioni, per chi si concede il lusso di provarne. Le risate a crepapelle, le chiacchiere al telefono, le lettere scritte a mano, i pranzi in famiglia, non tutti, o con gli amici, la birra alla spina, i calici di vino rosso o bianco, il caffè al sole, le pennichelle all'ombra, arrabbiarsi, ma non sul serio, fare collezione di qualcosa. Il mondo esiste nei nostri sensi, prima di esistere come un tutto ordinato nel nostro pensiero, e dobbiamo fare il possibile per conservare nelle fasi successive della nostra esistenza questa facoltà creatrice di senso. Vedere, ascoltare, osservare, sentire, toccare, accarezzare, percepire, annusare, assaggiare, avere gusto per ogni cosa, per gli altri, per la vita. Questo che abbiamo sentito è uno stralcio di un libro bellissimo che io ho scoperto preparando la puntata, quindi l'ho letto di corso e con grande passione. Si intitola Il sale della vita, è scritto da un'antropologa francese, Françoise Héritier, che, come sull'onda di un'irrefrenabile vitalità, ha generato una lunghissima lista di tutte quelle cose, emozioni, piaceri, colori che rendono la vita, come si dice, meritevole di essere vissute, che tutti noi quotidianamente sperimentiamo, talvolta senza rendercene conto. Allora, leggendo questo libro, ho voluto condividerlo con la nostra cacciatrice di libri, Alessandra Tedesco, che è qui in studio con me. Buongiorno a tutti. Alessandra, un bel libro, secondo me, da aprire e da leggere a pezzetti, perché in realtà è proprio un elenco. Sì, è un elenco, sono circa 90 pagine, quindi insomma è un libricino, non potrebbe essere ovviamente più lungo. A me ha ricordato un po' quel gioco che facevano in televisione Fazio e Saviano con le liste, no? Sì. Delle cose. Anche le liste, che possono sembrare fredde, in realtà possono creare molta emozione, l'importante è che siano ovviamente presentate bene. E quello che fa questa antropologa francese in questo libro è esattamente questo, ci dà delle idee. Il suo pretesto è che riceve una cartolina da un amico medico che le dice: ah, mi sono concesso una settimana di ferie. Concedere una settimana di ferie è giusto, anche se il proprio lavoro appassiona tantissimo. Concedersi delle pause nella vita per apprezzare dei piaceri, adesso non vorrei essere stucchevole, però insomma, che spesso ci dimentichiamo. Certo, sono questi granelli di felicità, professor Remuzzi, lei riesce ad apprezzarli? Sì, abbastanza. Nella quotidianità? Cioè? Queste piccole cose che vengono riportate nel libro. Se vado che in ferie, insomma. Sono... lei in ferie va no, poco. Non tantissimo. Però, ad esempio, racconta le lettere scritte a mano, i pranzi in famiglia, dice non tutti, la birra alla spina, il calice di vino, i profumi. Ma poi, Nicoletta, sai la cosa più bella, secondo me, che dice: gustarsi la coppa del nonno a Firenze. Cioè, secondo me la coppa del nonno può essere gustata in qualsiasi città d'Italia dallo stesso stesso identico piacere, però ci sono veramente piaceri belli. Per esempio, lei cita aspettare il postino. Io ricordo quando a 20 anni avevo gli amici di penna, no? Da tutto il mondo, e aspettavo la lettera. Cioè, quello è un piacere stupendo. Ma anche, non so, quello, lei dice, osservare i dettagli dello sfondo della Gioconda. Cioè, a chi piace? Io sono appassionata di arte. Per me guardare un quadro di Caravaggio, perché è un vi piacere. Parliamo del sapore il sapore della vita, il sale della vita, proprio perché oggi vorremmo invitarvi a lavorare su questo doppia binario. Da un lato, chiamarci all'800 24 00 24 per capire come e se volete ridurre il sale in tavola, e nell'altro invece vorremmo che voi ci raccontaste qual è per voi il sale della vita, questi piccoli frammenti, granelli nella nostra quotidianità che vengono così descritti nel libro di Elea Héritier e che Alessandra Tedesco ci ha raccontato brevemente, proprio per darci qualche spunto. Qual è il sale, il granello di sale della tua quotidianità? Oddio, adesso non vorrei sembrare anche questo chevole, visto che sono la cacciatrice di libri. Per me il gusto è mettermi sul divano, magari in una giornata di sole con le finestre belle illuminate, e iniziare a leggere un libro, perché nelle prime pagine di un libro, di un incipit, ci sono tante promesse, e possono essere promesse da marinaio, quindi poi il libro ti può tradire, oppure possono essere delle promesse rispettate, e per me è una passione. La beatitudine delle sere fresche d'autunno, i tramonti, restare svegli la notte mentre tutti gli altri dormono, cercare di ricordarsi le parole di una canzone d'altri tempi, andare a caccia di odori e sapori, leggere il giornale in pace, sfogliare un album di fotografie, giocare con il gatto, immaginare la casa dei propri sogni, apparecchiare con cura la tavola, tenere un diario, ballare. Essere e benessere. Aggiungiamo sale alla nostra vita, alla nostra quotidianità. Questo è l'invito di oggi. Togliamolo dalla tavola, ci guadagniamo tutti. È anche un, professor Remuzzi, un'attenzione che può essere considerata preventiva per la nostra salute, è così? Certo, assolutamente. Ci sono poi delle persone che hanno delle patologie che il sale devono assolutamente limitarlo, come lei ha sottolineato prima, ad esempio gli ipertesi. Ci sono persone che prendono i farmaci e continuano a mangiare molto salato. Certo, gli ipertesi e quelli che hanno una certa forma di insufficienza renale. Per esempio, uno studio che è stato fatto da noi recentemente, pubblicato anche in un giornale importante, è che uno dei farmaci che hanno cambiato la storia della malattie cardiovascolari e della progressione delle malattie renali fanno parte della categoria dei farmaci che si chiamano ACE inibitori. Vuol dire che inibiscono un certo enzima che forma un ormone angiotensina che è molto importante nella regolazione della pressione. Ecco, questi farmaci non funzionano in presenza di tanto sale. Ecco, quindi... Tra l'altro, quello che abbiamo visto in questo studio è che non è che uno deve togliere completamente il sale, non bisogna metterne in eccesso, quindi non parliamo mai di mangiare insipido. Dobbiamo soltanto ridurre in modo giudizioso la quantità di sale, che poi vuol dire stare attenti ai prodotti in scatola e agli insaccati, sostanzialmente, sì. Quindi questi prodotti confezionati che e non aggiungere già subito e non aggiungere sulla tavola e basta. Ecco, perché questi ci sono persone alimentari devono essere il più semplici possibile, se no sono difficili da seguire. Che prima ancora di mangiare salano. Ecco. Gigliola da Vicenza, buongiorno, e subito dopo Luciano dalla provincia di Milano. Gigliola, buongiorno. Buongiorno. Niente, io invece è il contrario. C'è il problema della pressione bassa. E perciò come fare a sostituire il sale per non mettere tanto sale per tirare su la pressione bassa? Insomma. Perché Gigliola dice, chi ha la pressione bassa, quando uno dice metti un pochino di sale in più, tanto hai la pressione bassa. Questo è un po' una leggenda, un consiglio che questo circola. Questo è un consiglio per idealizzati. Questo è un consiglio quando idealizzati si collassano, gli diciamo... Brodo salato, questo era un consiglio, ma in realtà uno che sta bene, la pressione bassa non è un problema. Chi ha la pressione bassa? La signora? Gigliola, ce l'ha lei? Il marito. E il marito quanti anni ha, se posso? Ha 61 anni. E è una persona che ha altri problemi, per esempio ha problemi di cuore? No. Sta bene? Sta abbastanza bene, sì, soltanto che questa pressione bassa dura... estate ancora di più, sì. Perciò si sente fiacco così. Si dice che sia la malattia della persona che non muore mai. Sì, è fortunato. Ecco, è fortunato se lui. Sta bene, cammina, fa sport, fa le scale senza che abbia che gli manchi il fiato, è fortunato. Ecco, non gli dia più sale però, perché sennò poi rischia anche lui, no? Perché aggiungere comunque del sale in più con l'idea di far salire la pressione. No, la pressione comunque... non sale, perché tanto sale, tanto entra, tanto esce. Questo signore che ha la pressione bassa avrà quasi certamente una funzione renale normale, quindi... Se lui aumenta l'introduzione di sale, rimirerà più sale. Luciano, buongiorno dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, come sta? Va bene, io soffro di calcolosi. A novembre ne ho fatti 4 in una mattina, poi sono stato bene per qualche giorno, poi ho ricominciato con dolori, ho fatto un attacco intendente col contrasto, risulta che ho nel rene destro... calcoli sostanzialmente da 1 a 6 mm, sì. Quindi come me sono due, uno di 2 mm nel rene sinistro e uno di 4 mm nell'urettiere sinistro. Quindi, insomma, ora, un grande produttore di calcoli e come lei ha sottolineato arrivano e poi ritornano. Luciano, venga la domanda, che così il professor Remuzzi può darle un'indicazione. In casa tendiamo ad usare poco sale, specialmente la moglie mi porta a usare poco sale, però io peso 70 kg, ho una pressione attorno ai 90, 85 perché sto prendendo la pastiglietta, cosa ho detto di chili? 67 che io mi sto, scusi un po', 67, sì, 68 ci sta chili. Dando un po' dei numeri perché è un po' emozionato, comunque sì, sovrappeso, corro, sì, corre. Corro parecchio perché facevo maratone un annetto fa, vi ascolto anche il venerdì quando riesco. Sì. Però ho questo dubbio, cioè che cosa me li genero? Che intanto, cosa? Perché questi calcoli e soprattutto un rene, professor Remuzzi, con i calcoli, un rene comunque affaticato, a rischio? Beh certo, è a rischio di infezioni, a rischio di tante cose, però tre cose si possono fare facili. Sì. Non mangiare sale, lo fa già, non mangiare proteine, quindi niente carne rossa, e due o tre limoni al giorno che contengono citrato, e aiutano a evitano che questi sali di calcio precipitino, ammesso che i suoi calcoli siano, come immagino, fatti di ossalato di calcio. Poi si tratta naturalmente di stabilire di che cosa sono fatti i calcoli, però queste regole vanno bene per qualunque tipo Quindi, di calcolo. Qualunque tipo di calcolo, la ripetiamo che così la mettiamo, per chi ha già avuto un'esperienza di calcoli, la dieta è? La dieta è niente sale o pochissimo sale, perché... Il sale aumenta l'eliminazione di calcio, quindi sì. La gente pensa ho i calcoli sono fatti di calcio, invece mangio meno calcio. Quello non è da fare, bisogna mangiare cibi che contengono calcio come le persone normali, per delle ragioni che magari non è il caso che entriamo in questi dettagli. Invece bisogna eliminare il sodio, perché quanto uno mangia tanto sale, il rene lo deve eliminare. Nel processo di eliminazione del sodio elimina anche calcio e quindi aumenta la quantità di calcio nelle urine che precipita. Quindi evitiamo che uno debba eliminare più calcio, perché più sale vuol dire eliminare più calcio. Evitiamo le proteine, perché le proteine, soprattutto quelle della carne rossa, aumentano la tendenza a formare i calcoli. Pesce possiamo mangiarlo, certo, proteine carne bianche, vegetali, pesce, sì? Niente proteine, animali soprattutto carne rossa. E questo poi... quando lo si è scoperto ha cambiato sostanzialmente la storia di chi forma i calcoli. E poi agrumi, limoni, stiamo facendo uno studio, le conclusioni non sono ancora definitive, però ci sono molte ragioni per pensare che il citrato che è contenuto nel limone eviti la formazione di questi complessi di calcio ossalato, di questi sassolini che si formano. E questo ha un grandissimo vantaggio, cioè inibisce la formazione di questi cristalli. E lei ha detto 2-3 limoni. 2-3 limoni, sì. Che si possono mettere nella spremuta d'arance, dove si vuole. Dove si vuole. 80024. Bisogna mangiarli, naturalmente. Certo. 800240024, tra poco consigli, allegre sostituzioni, ci raggiunge tra poco Marco Bianchi, intanto a noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. Provare delle scarpe nuove, fare gli scemi e improvvisare delle imitazioni, visitare una città per la prima volta, giocare a calcio, a scarabeo o a domino, raccontare storie assurde, fare giochi di parole, cucinare un piatto difficile, giocare a bocce, rimuginare un'idea, guardare un vecchio film in televisione o in un cinema d'essai, fischiettare con le mani in tasca, perdersi via, i momenti di silenzio e solitudine, correre sotto la pioggia calda, le conversazioni interminabili nella penombra, i baci sul collo, il profumo delle brioche calde per strada. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. Sale, centelliniamolo, riduciamolo a tavola. Il professor Remuzzi dava delle indicazioni molto chiare, semplici, almeno non aggiungiamolo, e occhio a quello che consumiamo nascosto in alimenti insospettabili, professore. Di questo parliamo con Marco Bianchi, responsabile della comunicazione progetto Smart Food di EO, che è un progetto di ricerca sugli alimenti che ci aiutano a mantenere e ritrovare salute. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. E poi dovrei aggiungere anche che dopo aver salvato i ragazzi, tesoro, salviamo i ragazzi, adesso stai aiutando le persone a perdere peso con il nuovo programma su Fox Life, Aiuto Stiamo Ingrassando, giusto? Confermo tutto. No, e io questi amici anche a ridurre il sale. E infatti... Ne consumiamo spesso troppo e abbiamo a volte anche un po' le idee confuse. Quello che vendono ai supermercati. Dietetico. Normale. Marino iodato, credo, una roba così. Normale. Quello grezzo. Iodato. Fino. Quello che capita. Grosso. Iodato. Integrale. Fino. Grosso e fino. Io non lo uso. Fino e grosso da cucina. Marco diceva abbiamo un po' le idee confuse, insomma ciascuno usa un po' quello che vuole, sale fino, grosso, iodato, c'è chi cerca di usarle meno, ma a volte il sale si nasconde in alimenti che noi consumiamo senza avere la percezione, la consapevolezza che stiamo mangiando molto sale, anche se il sapore non è salato. Quali sono, Marco? Confermo anche tutto quello che ha detto appunto il professor Remuzzi, che con molta attenzione ho ascoltato e condivido ogni singola parola. Ne consumiamo davvero troppo. Pensiamo anche semplicemente che come adulti ne consumiamo almeno il doppio rispetto alla quantità consigliata, e anche i ragazzini, quindi anche i giovani, ne consumano in media circa 7,5 grammi per appunto i 5 consigliati, quindi comunque sempre un eccesso, perché è nascosto dentro i prodotti anche da forno. Pensiamo anche a una... Un biscotto? Sì. Un biscotto contiene circa 0,1 grammi di sale. Parlando poi di brioche semplici, arriviamo a 0,4-0,6 in base al tipo di brioche, quindi anche una semplice merendina a base di pan di Spagna ne contiene ad esempio 0,3. Basta sommare qualcosa di dolce che si consuma nella giornata, del pane, in cui è sempre nascosto ovviamente del sale, sì, e magari purtroppo, per chi è abituato male, anche... I tanti salumi che si consumano sono delle vere miniere di sale. Certo. Guarda, Nicoletta, guarda, semplicemente al volo, pensiamo a un prosciutto crudo che già ne contiene 3,4, una porzione di prosciutto crudo contiene 3,4 grammi di sale, noi ripeto dovremmo arrivare a 5 al massimo. Quindi quello... abbiamo già... quasi assunto. Abbiamo già quasi sforato. Abbiamo già quasi sforato. Senti invece, Marco, ho bisogno di te per rispondere subito ad alcuni ascoltatori. Alghe, miso e tamari sono ottime per dare sapore a minestre e pietanze, ci scrive Lella. Possono sostituire il glutammato di sodio? Un'ascoltatrice ti ha aspettato perché l'ho invitata a fermarsi proprio perché voleva sapere come sostituire quel sapore tipico del dado, che sappiamo però è molto ricco di sale. Come si può fare? Guarda, solitamente quello che consiglio è innanzitutto imparare a giocare molto sugli aromi, quindi realmente qualche trucchetto per portarle in cucina più sapore vuol dire anche crearsi magari un gomasio fatto in casa, quindi semplicemente dei semi di sesamo che andiamo a frullare con un pizzichino di sale. Siamo noi a avere le redini sul sale, quindi se la quantità, diciamo, ufficiale, sì, da ricetta ufficiale giapponese, per dire, sono 10 cucchiai di sesamo e uno di sale, possiamo anche far diventare 20 cucchiai di sesamo e uno di sale. E in questo modo ci portiamo dietro molto sapore per insaporire anche la più semplice proprio delle verdure, del pesce cotto in maniera molto semplice. Alternativamente si può, quello che poi consiglio è, per sostituire ad esempio il dado, sì, imparare a lessare la verdura, cuocere la verdura con un mazzettino magari di carote, sedano e cipolle direttamente nell'acqua, In questo modo diamo molto sapore all'acqua di cottura, che sì, poi è un'acqua che possiamo anche riutilizzare perché poi è anche arricchita di sali. E poi ancora, vabbè, giochiamo tantissimo con salvia, alloro, le bacche di ginepro, l'aglio, cioè imparare a utilizzare questi triti di aromi, perché veramente regalano tantissimo, ma ci offrono anche tantissima salute, perché evitiamo di aggiungere poi certo sali. Per quanto riguarda invece tutti i sali che arrivano dall'Himalaya, il sale nero, il sale rosa, il sale giallino, affumicato, eccetera, lasciamo di arrivare da dove arrivano, è sempre sale. È sempre sale, ecco. Quindi non può cambiare un po' magari la quantità a volte di sodio presente. È sempre la solita minestra, potremmo dire così. Però sì, assolutamente. Grazie, guarda, a Marco Bianchi. Speriamo di averlo presto qua con noi. Potete seguirlo nei suoi programmi, nelle sue mille iniziative. Grazie, buona giornata. Un abbraccio a voi. Grazie, grazie Nicoletta. A te. Andiamo a Luciano da Venezia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, grazie. Grazie a lei. Complimenti per la trasmissione. Grazie, ci vuole dare una sostituzione? Sì, sì, una sostituzione, nel senso che anch'io soffro di pressione alta, che sì, seguo ormai da anni ed è a posto. Io ho sostituito il sale praticamente con la curcuma. E si è trovato bene? Benissimo. Professor curcuma, leggermente peperoncino, ma poco. Come suggeriva il professor Remuzzi, che ha citato subito il peperoncino. Esatto. Grazie Luciano per questo suggerimento. Grazie a lei, arrivederci, in complimenti. Grazie. Professor Remuzzi, a proposito di pressione, ritorniamo, perché il rene ha un ruolo centrale, no? Nella pressione. Noi pensiamo, certo, la colleghiamo sempre al cuore, ma il rene è il vero... Certo, l'organo che regola la pressione è il rene. E quindi nella riduzione del sale mettiamo tutto d'accordo, mettiamo d'accordo il rene, mettiamo d'accordo la pressione. Mettiamo d'accordo il rene, mettiamo d'accordo le conseguenze della pressione alta su tutti gli altri organi, che sono soprattutto il cuore e il cervello, ma gli occhi per esempio. La pressione alta può comportare dei problemi alla circolazione della retina, e quindi alla lunga anche questo si traduce in un problema che è molto lontano dal rene ma estremamente importante per il nostro benessere. Grazie al professor Remuzzi, che deve tornare perché le vostre domande sono tante. E, professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a tutti. Vi aspetto domani. Essere e benessere.